nome. Va bene. No, un pochino ce n'era ieri pomeriggio, verso quest'ora sentivo ma poca roba. Stamattina invece è bello, bello aperto, era la zona ovest, sud-ovest. La zona sud-ovest e ovest era proprio apertissima, era una cosa da non credere. Anche la zona sud-ovest, dal nord-ovest a sud-ovest, era tutto quanto aperto. Infatti si sentiva Spagna, Costa Rica e ho sentito anche l'Indonesia ieri. Ho sentito anche l'Indonesia. Invece oggi mi sono messo piano piano un paio d'ore e ho collegato sia Costa Verde, che mi mancava, quelle isole piccoline mi mancavano, e il Brasile. Il Brasile mi prendeva a 5 di segnale. Bravo. Bella mossa allora. E bambini, bambini, adesso piano piano già inizia ad aprirsi, dai. Tra un po'. Su quale canale eri? Nei canali alti ero, sul canale 12 banda E, se non sbaglio. Se non sbaglio è banda E o banda D, non me lo ricordo. Comunque al 27555 e dopo ti sposti dal canale GV che vai sul canale, aspetta, me lo so scritto, 27575 e 565 ero. Mi sono fatto sia uno che l'altro. Però stavo aspettando le chiamate sullo 555, cioè sul canale 12. Ho aspettato le chiamate, mi sono assillato a cercarlo, proprio a chiamarlo, a chiamarlo, a chiamarlo, perché avevo un po' di chiamati una dietro l'altra. E parlavano anche tutti e due l'italiano. Quando è così va bene, dai, anzi, è anche bello e piacevole farti due chiacchiere, insomma, un saluto quello a te, dai. E il gruppo è quando senti quelli inglesi, spagnoli, chi so che è, e te arriva una valenza e riesci a comunicare e non ti rispondono neanche, allora lo vedi al gruppo. Lo sai perché? Perché loro viaggiano con direttive e con kilowatt sotto, quindi tu con 100 watt non riesci a tenerlo sotto. Proprio lui sente questo fruscio leggero leggero, ma non manco lo muove loro smitter. Quindi loro viaggiano con watt, anzi con kilowatt, e tu viaggi con watt e non riescono a sentirti. O magari con la propagazione, allora sì, solo che allora a te ti arriva una bomba, invece tu a loro gli arrivi di segnale molto basso. Caparappa, va bene, dobbiamo decidere cioè a prendere la patente, dai. Io già sono iscritto al corso, sto facendo le lezioni, solo che una me la sono già persa. Ma come stai facendo? Non ho capito, cos'è? No, me le stai facendo. Con il gruppo radioamatori dove sono io. Abbiamo un'altra associazione che in poche parole fanno anche i corsi per radioamatori, per la patente. Tutto quanto viaggia su Zoom, adesso siamo già molto avanti, siamo già alla settima lezione, sesta o settima lezione. Ah no, pensavo che fossi giù al posto di soccorso. Dove? Giù alla Teloce. Ah. No, lì anche loro conosco, però non mi hanno mai chiamato per andare a fare il corso insieme a loro, però io preferisco starmene qua in casa, almeno sono tranquillo, se ciò sono mi dromo e la lezione la riprendo un altro giorno, un altro momento, perché la registro anche su Facebook, però il fatto è che è un gruppo chiuso, capito, non può entrare nessuno, se non che è stato già registrato nel gruppo. Ciao, bene, bene. Allora, magari organizzare le lezioni, però non si sa quando. Bisogna chiedere ad Antonio Jigsaw, lui è che le fa le lezioni qua alla Teloce. Come l'altra volta, dai. Come l'altra volta, adesso vediamo, non esce fuori. Senti, vuoi prendere la patente, basta andare a comunicarglielo, glielo dici, se lo conosci. Oppure gli mandi un messaggio su Facebook, già rispondi subito Antonio. Ciao, brava. Adesso vediamo, dai, vediamo. Anche perché adesso se io avessi avuto la patente stamattina, non mi sarei fatto questi due collegamenti, ma me ne sei andato in 40 metri, o magari in 20 metri, dove c'è la propagazione aperta, e avrei fatto uno dietro l'altro. Mi sarei fatto quasi il giro del mondo, in poche parole, dai. Eh sì. È vero, è vero. Sempre fuori la modulazione, Dani. La radio è sempre bella, Sì, c'hai sempre quel segnale di 9.30 e radio 5, quella secca. Non è compressa, no, va bene. Sei leggermente, ma appena amplificato. Però già stai uscendo bene. Dai, forse è anche troppo alto adesso il microfono. Hai messo un microfono normale lì, capito? Ah, un palmare, non è da tavolo. Oh no, questo è... cos'è questo microfono? Ah, il microfono è la... il 4190 della Midland. ACTE. Oh, non lo conosco, però è bello, bello forte come microfono. Già si fa sentire. Ciao ragazzi, metti papà la... Ora questa è mia, l'altra è la CTE di serve. È proprio di oggi nel 48 modificato, è uguale. Ah, e lei che radio? Che radio stai usando? Questo è un Superstar 3009. Che c'ha il frequenzimetro in mezzo, la mappa ai canali sulla destra e a sinistra c'ha lo smitter. Sì, sì, già me l'avevi detto, sì. Casamentami tutti i canti di radio che mi dice, è un macello. Però questa qua, se non sbaglio, viaggia anche nei canali alti, se non... vero, giusto? Sì, sì, sì, questa nasce già con le AM, FM, bande laterali e questi gli altri canali, dai. Sì, no, già è carina anche quella lì come radio. Già lo fa il suo dovere. Brava dama. Che adesso c'ho l'87 che mi ha mollato. Non sta più scendo. Non lo so dove sia successo. Qualche sincope di trasmissione è sceso. Vabbè, degli altri non ho sentito più nessuno. E altri chi, Dani? Gli altri che stanno al canale 10. Stamattina ho sentito qualcuno, sono rientrato veloce in radio perché stavo facendo questo della banda laterale. Sono tornato veloce in radio in questo canale, al canale 10, e non c'era più nessuno. Però li avevo sentiti che stavano parlando. No Dani, perché ho acceso il poco fa, diciamo, poco fa. Capito. E quindi ancora è preso. No, sta facendo più che c'era buco. Strano che ancora non c'è nessuno, strano. Ogni tanto senti qualcuno che ha proprio una delle dall'altro, oggi non c'è proprio nessuno. E non c'è neanche propagazione, proprio silenziosissima oggi la radio. E oggi anche domenica. Magari stavano partito roba del genere. E più tardi entreranno. E anche io mi sto guardando le partite, se non so bene ma come te fate un pallone, a me il campionato proprio non mi piace. va bene, dai, devo aspettare 2 minuti, Dani, che vado a fare una sigaretta e poi rientro, vai. Ok, dai, adesso provo a farmi un altro giro per vedere se trovo qualcosa. Dai, sei, ci sentiamo dopo. Che va, adesso un po', dai, tutto acceso qua. Così il drone continua a scaldare e a volare. E io di temperatura sono già a metà del termometro. Perché questa radio mi dice anche la temperatura. Cavolo, bella. Che radio è quella, Dani? L'IC7000 della Icom. Kappa. Guarda adesso com'è, Dani, che sono 3 watt. Si sei sugli 10, adesso sia 9.20. Però la radio è sempre la stessa. Quello che mi interessava sapere. Quello è normale, Dani. Quello è normale. Che 10 li perdevo di brutto, perché adesso sono liscio come l'olio. Già va bene anche così, dai. Io molto ti sto arrivando. Con questo guarda, sei 9.20, 9 qualcosa, però non sono col grande, capito? Questo è avaro. Quindi non è affidabile, no? Non è affidabile. Sì? Dai, fai fumarti questa. la sigaretta, io vado a farmi un giro e dopo torno subito. Vediamo se trovo qualcuno, dai. Dai, non mi trovo, ma trovo lì, dai. Ci aggiorniamo a tra poco. Chi è che stava parlando ancora? Claudio, se non sbaglio. Giovanni, ciao Danilo. Ciao Giovanni, a Platamona sì. Sempre. Mi senti? A voglia che ti sento. Aspetta, dimmi una prova che ho l'antenna puntata verso zona di Alghero. Adesso provo a commutare e mi dici che differenza c'è tra questa che è la verticale e questa qua che è la cubica che è puntata verso Alghero. Che differenza c'è? Molto meglio prima, la prima che stavi usando, con questa è il passo basso di radio. Quindi con quella di poco fa basso, perché non è puntata verso di te, ce l'hai di fianco e quindi è giusto che arrivi così. Ma anche tu mi arrivi a 9 di segnale messo di fianco, invece con la verticale mi arrivi a 9,20 senza problemi. La radio. Non t'ho capito. La radio com'è? Facendo bene di radio? Sei appena bassino, c'hai un pochino di QRM sotto, però sei bassino di radio. Capito. Ce la fai a sollevarlo un pochino il volume della radio? Il volume della radio sì che lo posso sollevare, lo sollevo? Appena, già te lo dico io quando basta. 1, 2, 3, prova, cambio. Un altro appena un cc, ce la fai? 1, 2, 3, prova, cambio. Hai migliorato appena, ma già va bene così, adesso già si capisce un po' di più la voce. No, la sto tenendo basso come volume, perché ho visto che c'è gente qui e sta ancora dormendo, riposando, capito? Ah, oh, perché se sollevo il volume per te, come parlano gli altri, mi spaccano la colonnina, mi fanno sordo. E qua mi succede la stessa cosa con te, non ti credo. No, tu come volume sei basso, stavo parlando con Daniele poco fa, è molto più alto di volume, quindi non conviene sollevarlo. No, lo sto tenendo bassino io, come ti ho detto prima, se vi deve stare riposando, capito? Ah, ok, via. Ah, io adesso provo a farmi un giro in propagazione a vedere se c'è qualcosa. Se non c'è nessuno torno qua, là. Su che canali vai? Cosa? Su che canali vai, che provo a farlo anch'io. Stamattina ho fatto due bei collegamenti. Ho fatto Capo Verde e Brasile. Il Brasile mi prendeva 5 di segnale, proprio radio lo stesso, bella forte, però radio 5. Segnale 5 e radio 5. Capoverde invece mi prendeva 9, però ho detto che mi sentivo un pochino strano, infatti gli ho detto, oh, io sono tutto quanto tranquillo in radio, non c'ho niente, quello che mi dà la radio sto uscendo, ho detto, è strano, perché sei bello forte di segnale, solo che ti sento un pochino disturbato, ho detto, ma anche tu ti senti un pochino disturbato, comunque due bei collegamenti ho fatto. Io sono USB, parlare in italiano per la prima volta. No, io tutti e due in italiano li ho trovati, si chiamano tutti e due Paolo, uno di Capo Verde e uno del Brasile, e tutti e due italiani, infatti è per quello che sono andato a fare il collegamento, però parlavano anche in inglese e spagnolo, non so il motivo, lo spagnolo, però penso per il brasiliano, non lo so perché, comunque parlavano. Quello del Brasile parlava spagnolo, inglese e italiano. Sicuramente non era un macco. Ma si vede che quello che è a Capo Verde, che mi ha detto piacere di risentirti, sicuramente è quello che ho collegato l'anno scorso. Tu ci stai andando nella banda laterale USB, vero? Sì, e nei canali alti ero. Ero a 27575. Sì, c'era anch'io, sentivo qualcosa, però l'italiano ho sentito, magari l'ho acceso in un altro momento differente dal tuo, e l'italiano ne ho sentito uno solo, che poi credo che fosse straniero pure, perché parlava bene italiano. Già lo parlava bene, un pochino masticato, però già lo parlavano bene. Non era chiaro come il nostro, l'italiano, però già si facevano capire tranquillamente, riuscivano a capirlo anche loro l'italiano. No, comunque era tutta quanta zona propagazione, zona sud-ovest e nord-ovest, questa quella zona, tutta quanta la zona ovest, nord-sud. E bella forte usciva, salendo belli forti, anche i segnali stavano salendo. Ma li sento tutti i giorni, a palla mi arrivano, tutti i giorni, dalla N all'FN, in tutte, nelle bande laterali, in tutti i posti li sento, a bomba mi arrivano. Poi tu come sei, anche come c'hai il piano di riflessione dal mare, tu li senti ancora più forti, perché il mare riflette le onde di propagazione. Sì, positivo, infatti tengo il volume basso. E se si alza appena di QRM tu lo senti un bel forte. Con quale antenna sei? Con la boomerang o con la... come si chiama? La Mantova. C'è una Sirio 5 ottavi. Ah, la Sirio 5 ottavi c'hai. E qual è quella? È in vetro resino o quella in alluminio? È in alluminio, ma cazzo, è a 5 metri dal piano stradale, non ti credere che sia alta, eh. 5 metri inizia già a andar bene, sai che se non sbaglio 5 metri dalla punta riesce a vedere il mare. 5 metri dal piano stradale, 5 metri dal piano da terra al radiale, sono 5 metri. E al primo radiale dove c'è tutto l'avvolgimento dell'antenna? Esatto, da terra, lì sono 5 metri. Infatti io ti ho detto, la punta dell'antenna, il mare, penso che lo veda senza problemi. No, negativo, deve attraversare una pinetta e una pinetta deve attraversare. Ah, quindi non lo vede male. Io l'avrei sollevato un altro pochettino, in modo, oppure se n'è andato avrei tagliato un po' di alberi. No, il riflesso del mare spinge molto di più. Sì, lo so, porca miseria. Però, diciamo, se facci sentire qua già va bene anche questa, via. No, io adesso questa cubica la motorizzo e sfrutto anche a questa, perché l'ho provata ed è una bomba. Proprio è una cosa da non credere. Tu pensa, stavo ascoltando il canale 12, 27555, con la verticale li sentivo bassi, a 2, a volte anche 3 di segnale. Come ho commutato sulla cubica mi salivano 7, certi anche a 9. Belli furti, tutta quanta quella zona fatta così. E ti conviene lasciarti quella, ascolti e ricevi meglio. A voglia. No, comunque, adesso me la organizzo, me la metto motorizzata, da. Così me la oriento dove riesco a sentire più forte il segnale. Sì, se c'è la possibilità, l'avrei fatta avendo la possibilità. Io qua, in altri posti, non saprei proprio dove metterla questa antenna. Potrei metterla sopra il tetto di casa, ma poi ci devo mettere un casino di cavo. Già la puoi mettere, sì, non è che ti rompono le scatole. No, assolutamente, la posso mettere. La volevo mettere lì all'inizio, poi è stata una cosa in fretta e visto che avevo un sostegno qua, un palo già di ferro montato in terra, ho preso e mi ci sono attaccato. Io ho visto che va bene, a faccia di ci arrivo e dunque posso anche lasciarla così. No, comunque se ti vuoi mettere un'altra antenna oppure la vuoi spostare che ti serve più cavo, basta me lo chiedi, già te lo do, non ti preoccupare. Su quello non ti preoccupare, no, già non te lo faccio pagare, da. No, potremmo fare qualche scambio perché più avanti ce la voglio levare da qui. Adesso non in questa stagione, perché però più avanti la voglio spostare da qua. Cosa la metti? A quello che c'è più su di te? Me la metto sul tetto, me la metto. Però lì a sé cos'è, Diego? Ti servono i tiranti, perché lì il vento lo prende forte. Oh, guarda che qua ne prende, c'è un arringo in mezzo a un campo, proprio in mezzo a un campo. Ed è quella è molto alta, solo che l'altra volta, mentre la montavo, gli devo aver fatto qualche colpo. Non è più come stava uscendo prima. Poi io dipende pure, può dipendere anche dall'apparato che sto usando. Sì, quello sì. Infatti lì conviene mettere a tirantarla e tenerla bella secca, perché lì il vento è una cosa da non credere. Poi il maestrale, la tramontana lì, sono all'ordine del giorno, quando iniziano a soffiare. Tutti i giorni va, cioè tutti i giorni il vento, tutti i giorni. la cosa brutta lo sai cos'è anche? Che magari stai trasmettendo, non te ne accorgi, il ventolo come mi ha fatto la volta scorsa a me, ha tirato così all'improvviso di botto e mi ha strappato il palo dell'antenna, da. E meno male è rimasto un tassello su quattro, è rimasto un tassello. E meno male con quel tassello che è rimasto non è caduta l'antenna sopra i cavi elettrici. Addirittura sopra i cavi elettrici, certo. Al bordo della casa qua passano i cavi della 380, i quattro cavi della 380, quelli in rame in tondino. E meno male non è caduta sopra quei cavi. È pericoloso, no? Quella conviene fissarla bene, come hai tempo, prendetela, fissi bene, credo che l'avrei già fatto comunque. Sì, e a voglia che l'ho bloccata questa volta. Io ho messo le barre filettate in acciaio inox, 25 centimetri, perché era una barra filettata da un metro, e ho fatto il foro da parte in parte del cantone, sopra il tetto, e l'ho tassello chimico. In poche parole, come ho spinto la barra filettata all'interno, ovviamente avvitandola piano piano, il tassello chimico sicuramente è andato a aggrapparsi anche dietro il cantone e quindi è diventato tutto un blocco adesso. In poche parole, dietro il cantone c'ho anche la palla di tassello chimico, quindi adesso a provare a strapparla, zero. Già la volta scorsa ha fatto un vento bello forte e non si è manco mossa. Cantone o rapino o blocchetto? Cantone bianco o blocchetto? No, cantone bianco. Poi non va più via quello. Quella lì adesso ti rimane per sempre, bel lavoro. Molte volte conviene bloccarle bene, se no fai danno. Certamente, anche perché poi se commuove cade vai a fare davvero danno. Quelle sì. Invece la verticale, questa che sto usando adesso, la Game Master autocostruita, quella lì c'ho il palo in fibra di carbone, in fibra di vetro, più tutta quanta l'antenna, e sono a 12 metri, sono 7, 5, 12 metri dal tetto, più 4 metri arrivare a terra. Che zona stai a Sassari? Sono dei piedi di Sant'Orsola Nord, dove passa il treno. Ah, ho capito. E quella lì proprio non l'ho manco tirantata, quella lì la volta scorsa ha tirato un vento, la fa flettere, però non gli fa niente. La volta scorsa il vento che stava tirando da poco, tu pensa che c'era, era grescale, tu pensa che c'era la canna da pesca coricata, sembrava che stesse abboccando qualche orata di quelle belle grosse. Era proprio piegata, ma non piegata la canna, piegato il palo, anche il palo stava piegando. È stato bello spavento, meno male, non è successo niente. No, già su quella lì già non mi devo mai preoccupare, anche perché dentro quella canna da pesca ce ne sono altre tre, schiumata ovviamente, più nel palo c'è un'altra canna da pesca di quelle grosse che usava mio padre quando andava a pescare. Ormai invece ne vado tutto. Te ne ha buttato tutto in terra? E allora, un paio di settimane fa ho fatto quel ventaccio, mi ha proprio troncato, cioè volevo dire 5 ottavi, e mi ha proprio troncato dal... Cioè, presente come fate, c'è quella tappa? Dove c'è in mezzo la prima basamento c'è la carica e sopra si innetta proprio la porta d'antenna e quel pezzo va troncato. Va a distruggere, a spezzare proprio la parte più tenera dove va a fare flessione qualche parte. Quello sì. Quello lì è la parte più lonfia. Ma io il palo me lo sono schiumato, ci ho messo un'altra canna da pesca dentro e poi me la sono tutta quanta schiumata, sia al centro che tra una e l'altra. Proprio l'ho tutta quanta schiumata. E pesa neanche 5 kg, tutta quanta completa, l'antenna più il palo. È leggerissima. E ogni volta che soffia il vento, anche una brezza leggera, lei prende e inizia già a curvarsi. Hai visto, così non fa resistenza. col vento prima di quello forte, lo stesso. Mi hanno fatto sotto il terz'ultimo elemento, proprio piegato, e poi c'è rotta lì. Cazzo, dalla rete da fatto. Ma meno male già te ne sei accorto che era prima di accendere la radio. Eh sì, perché l'ho visto, ho detto, ma che strano questa antenna che è così storta. Ho detto, qualche sincope di ascesa. Poi andando a vedere meglio ho visto che era proprio spezzata. E meno male c'aveva l'altro anello di sopra che mi stava attendendo la strappa, se non sarebbe scesa a terra. L'occhio quando è così. Vabbè, non era neanche nuovissima, ecco, come antenna, che l'avevo presa già usata. Però era meglio di quella che ho adesso. Quella che c'è adesso invece qual è? Adesso c'ho una Grand Plain. Ma l'originale? Sì, originale, la LEM. No, anche questa qua è una 5 ottavi, giusto? No, questo è un quarto d'onda. Ah, da un quarto è? Quindi appena più corta te le pesa. Sì, è più corta e... perché poi c'ha 4 radiali che adesso ne ho messo solamente 3 perché il quarto non ci stava. Poi c'ho problemi di spazio col tetto, c'ho 90 watt. E i radiali sono lunghi quanto l'antenna alla fine. Quindi c'è più lunghi il radiale che l'antenna, quasi. Beh, però già si fa sentire anche lì, da. Già esci bene anche con quella. Ehi, Alani, adesso la proviamo e poi dovrebbe andare bene, perché anche allo stesso piano con l'arringo. Poi volevo la 5 ottavi, ho messo la 5 ottavi. Ma io prima avevo una mantova modificata, però invece di mettere i radiali ho messo il filo del rame e me l'avevo fatta multibanda con altri radiali a salire in verticale con una certa lunghezza e non usciva tanto bene. Poi mi sono deciso che mi sono costruito questa qua e sto usando sempre questa qua, ce l'ho sempre montata. Di scendere a controllarla, perché guardo direttamente dal rosmetro e guardo se va bene o no. Se va bene la lascio stare, tanto non mi cambia niente. Cava. Dai, facciamo già per Giovanni, se non erro. Giovanni, ci sei? Ah, è andato a spostare l'antenna. No, è andato a tagliare gli alberi. No, sicuramente si è spostato un attimino. E poi lì a Portola si è anche penalizzato. Con tutti i pini che ci sono lì ti fanno una riflettente e non vai da nessuna parte poi. Oh, è una zona bella, però da una parte non mi piace a me come zona, però dall'altra parte è bella perché come sei lì non sai cosa fare, una bella giornata prendi le canne da pesca e te ne esci a pescare, tipo una passeggiata a mare, respiri aria fresca, però abitare lì proprio non mi piace a me. No, neanche a me. Se no ti prendi, ti fai una valigetta con la radio, qualche batteria, ti metti in spiaggia o l'antenna e inizi a fare collegamenti. E in spiaggia collegamenti ne fai, eh? Usi il mare come piano riflettente e viaggi che è una bellezza. Inno. No, io già me la sarei fatta una cosa del genere. Solo che quando andiamo a fare il contest più o meno siamo appena più alti del mare e il piano riflettente ce lo prende in pieno perché le mettiamo quasi al limite della costa e molte volte riusciamo a prendere cose allucinanti, gente dall'altra parte del mondo proprio a sentirli. Sì, che poi se ci pensi ce la fa cavolo, fanno arrivare fino a qua e sono diciamo qua con l'antenna e insomma condizioni e riesco a sentire mezzo mondo. Tutto molto tramite la propagazione e molte volte anche il riflesso del mare fa anche. Ti aiuta, è vero, è così. chiusi. Io l'altro giorno sto provando i 40 metri, la stavo ascoltando. Stavo arrivando chiari chiari da Perugia, una cosa del genere. In vado laterale era. L'anno scorso ho collegato, allora ce li ho scritti ancora qua, Torino, Milano, Pordenone, Olanda, Spagna, Cuneo, Assi e Lecce. Hai visto, ti sei divertito, dai. Così già è bello, sì. Adesso guarda, e l'altra invece è la più sorda, con la 50 che c'avevo prima io era sorda. Strano, strano che era sorda, o magari mancava qualche pezzo. No, comunque poi non eravamo in banda laterale, eravamo sempre qua in AM, in questo canale qua, numero 10, e ci hanno sentito quelli di Cagliari, abbiamo parlato con quelli di Cagliari, con quelli di Catania, di Frosinone, di Trapani, di Messina. No, l'anno scorso abbiamo fatto dei collegamenti allucinanti qua in AM, ma con questi fatti che stiamo usando adesso, senza attaccare niente. Cava, cava, quindi eravate lisci, dai. Ma cos'era, antenna autocostruita oppure l'antenna normale? No, questa che sto usando adesso è l'autocostruita, ma sono fatta io. Mi sono divertito un pochino, no? Non sono voluta costruire io, almeno me ne toglievo uno spicchio, no? Cava, cava, hai fatto bene. Perché c'è da comprare, costa una volta i soldi la Game Master. Quello sì, però calcola che questa qua è fatta con l'RG58 e così sono da quello 213, invece quella che uso per il camper è tutta quanta in H155, capito? E quella là lo stesso è una bomba come antenna, è uguale identica a questa, solo che è fatta tutta quanta in H155. Cava, cava, è quello già buono lo stesso come il capo. No, invece la carta l'ho fatta col 213, qua, bello grosso. Ehi, già ne ho ancora qualche bobinetta. E un bel po' l'ho venduta l'anno scorso, di 213, l'ho venduto più o meno mezzo chilometro, forse anche qualcosina in più. Di uno che sta anche venuto da noi a buttarcelo. E io sono riuscito ad agganciarlo e me lo sono fatto vendere a me. Allo stesso prezzo che lo vendeva il principale, lo pagava il principale e me lo sono venuto, ho acquistato io. Hai fatto bene. Dai. Sono finito di Sardove e poi, può essere buttato. Infatti, ma non sai quanto ne avevano buttato già da prima, però io non sapevo niente. Hanno fatto un impianto qua a Sassari, adesso mi ricordo se era la polizia o i carabinieri, hanno fatto l'impianto e tutto quanto il capo che gli è rimasto in più se lo stavano buttando. Erano quante bobine nuove, bobine già a metà, che avevano ancora 16 metri, una era ancora intera a 100 metri, tutto quanto ci stavano buttando. E gli ha detto, dallo a me, già te lo pago io, ma sei sicuro? Tu dammelo, fatti dimmi. E le ho fatte i soldi. E poi da quelle metratte lì mi sono fatto i calcoli a guadagnarci qualcosina in più e ci ho guadagnato 50 centesimi a metro, in poche parole. Bella mossa, di lusso. Hai fatto bene, Dani, hai fatto bene, perché era un peccato se no. Allucinante. Va bene. Aspetta che lo rilanciamo a Giovanni se c'è. Sì, stavo ascoltando. Danilo, mi ascolti? Sì, sì, già ti sento Giovanni. Dimmi, dimmi. Ricordati che me ne serve un po' allora di quel campo, Ma di 213? Ecco, no. 213 o 58? Cosa vuoi? Non conosco le persone. Non le conosco. No, non ti ho capito, sei basso, basso. Ho detto, non conosco le misure. C'è quello fine, che è più o meno da 6 mm, 7 mm, che è il 58. Poi c'è l'altro che è 10-12 mm, che è l'RG213. E allora non ti ho capito che mi hai detto. Quindi 213? Poi il 5. se non sbaglio un'altra matassa da 16 metri, se non sbaglio. 15 o 16 metri, non me lo ricordo. Mi dovrebbe bastare. Ti bastano? Sì, mi dovrebbe bastare. Tanto giovo a me, è lo stesso prezzo che ho fatto a tutti quanti gli altri, anche agli amici radiamatori, sempre a 1,50 a metro, e non mi sticcia nessuno, tanto già penso che lo sai quanto viene a costare a metro. La merda, vedi il tuo numero di telefono, datta il tuo e poi ti chiamo. Aspetta, forse il tuo numero ce l'ho, aspetta che ti dico prima se ce l'ho e dopo ti dico gli ultimi numeri se sono suoi. Com'è? 272? No, negativo. No, allora no. No, no, allora no, non è il tuo. Cioè, non vedi QRM sotto, non ti ho capito per niente. Adesso dimmi se puoi scrivere che te lo dico. Oh, controlla se ce l'hai per caso il mio. No, di voi non ne ho, Dani. No, ne ho un paio, non di voi, e basta. Solo di due persone, ho il numero di voi. E chi ce l'ha il numero? Il numero mio ce l'hanno in pochi qua. Ce l'ha Claudio, Tino e Luca. Se ce l'hai uno di loro glielo chiedi se te lo passano il mio numero. D'accordo, faccio così allora. E chiedi a loro, direi che già te l'ho detto io, di darmi il mio numero. Così mi mando un messaggio e ci incontriamo, ora. E va bene, facciamo così. E beh, Daniele. Sto usando questo spezzone di capo. A vedere un po' cosa diceva, lo sto rifacendo a nuovo. Sono passare le volte per cambiare radio, togli e metti e togli. No, comunque di capo io mi sono tenuto al 214, che è un pochino più superiore del 213. C'ha doppia calza. Invece di essere ramato e argentato ed è appena appena migliore del 213 ed è ne avevo 16 metri, sì, e ne ho usato 6-8 metri per arrivare al commutatore. Ciao ragazzi. Funge, dai, già va bene, sì, che poi se metti il 213, se lui c'ha la Ringo, è un bombo, come ce l'avevo prima io, non c'avevo la Ringo con il 213 e già viaggiava anche con l'antenna, dai. E sai cos'è che coincide molto? Il metraggio del campo. Sirio, per la Sirio. Mi sa che ti ho soprammodulato. Cosa Giovanni? Non ce la Ringo tu? Sì, ne ho due, ma quello mi serve per la Sirio, mi serve. Brava, brava. Bene, bene. Che Sirio c'hai? No, è una 5 ottavi, quella da 45, 47 euro. Mi hai sentito? Sì, sì, è che stavo soldando qua la cosa e qui non ti potevo rispondere. Ah, quindi c'hai due antenne, diciamo, dai, da sistemare. Sì, due antenne c'ho da sistemare, positivo. Bene, bene. E mi stavo dicendo con Danilo che tu lì sei mezzo penalizzato perché c'hai tutti quei bini e ti fanno, diciamo, da ostacolo, da barriera, e quindi non riesci a andare molto oltre, a meno che non sei in alto e li superi. No, negativo. L'antenna è 5 metri dal piano stradale, da terra al volgimento sono 5 metri. E quindi li superi, dai? No, assolutamente, non ci arrivo. Che non serve in macchina lo stesso la radio, passarvi lì ed era una tragedia, boh, sentivi più nulla. È vero. Ciao, basta che provo a girare un attimino la cubica, così vediamo se arrivo meglio con la cubica. L'hai già fatto e non andava bene. No, ce l'ho di fianco adesso, di fianco a te ce l'ho puntata verso il ghiero. Se aspetta un attimino, esco fuori, la giro verso di te e vediamo che si migliora, da. Vai, sono qua, vai. Ah, vai, continuate a parlare, senza problemi. Bene, Dani, adesso sto usando il grande, con quello di 9,20. Oh, tieni presente che voi avete microfoni da tavola, amplificati, e apparecchiatura molto diversa. sì, ma l'altro che stavo usando prima è un baracchinetto qui, Giova, con microfono, boh, 14 l'ho pagato, della Midland, Palmare. Qui non ti credi stessi usando questa grossa cosa, Questo che sto parlando io è un 7001 5 watt, 4 5 watt. L'unico che ha il microfono amplificato, basta. Già dice bene lo stesso, Giova. Già, vabbè. Già funge. Senti l'altro invece arrivi più basso. Magari vorrebbe essere regolato bene, capito? Magari c'è qualche fatto in meno, qualche cosa, regolare. Va bene, Dani, giratela questa antenna. Giova, ci sei? Positivo, fai un passaggio. Ok, come mi senti? Diverso o migliorato? Molto meglio, ma molto meglio prima. Molto meglio adesso o poco fa quando stavamo facendo il corso insieme? Prima, poco fa. Adesso con questa qua? Il segnale sei forte, Catalan, mi pare che ti sentivo meglio prima. Quindi di fianco? Sì, credo di sì. Poco fa quando stavo facendo le prove ti avevo di fianco l'antenna. Aspetta che metto quella radio che ti ascoltavo prima. Aspetta, ci metto un secondo. Con questa la riesci meglio, con l'altra è perso parecchio. Con l'altra è perché rimane tipo una direttiva, ti devo puntare, ti devo buttare addosso l'antenna. Se ti parlo che mi sei a fianco, no, non mi prendi quasi per niente, mi senti basso. Ho cambiato radio e ti sento benissimo. Ok, questa qua è la verticale, aspetta che vado a commutare. Ok, adesso sto usando la cubica. Com'è adesso? Ha migliorato o peggiorato? Molto più basso di radio, ti sentivo meglio con la verticale, hai sentito? Quindi basso di radio, invece con questo microfono? No, mi pare che non cambia niente. Quindi non cambia niente, tra microfono e microfono non cambia niente? No, sei anche molto basso di radio, infatti prima si abbomba, con lo stesso volume. No, ma anche tu mi ti prendo basso, quindi non ti ho puntato bene. Ma voilà, già non fa niente. Viaggio con la verticale che siamo qua davanti e non fa niente, no? Anche perché ascellarmi a cercare il punto è un macello, perché devi parlare, devo cercare il segnale più alto tu e provare a sparare io. Hai già migliorato notevolmente, questa per me va benissimo. Questa qua è la verticale, quella che mi sono costruito io, la Game Master. Cazzo, va benissimo, poi non puoi fare un coso lì, un controllo, cazzo, con uno che magari ce l'hai a due passi. Il controllo secondo me penso io e poi magari mi sbaglio, va fatto con uno che ti sta più lontano possibile. No, infatti stamattina come stavo facendo il QSO in banda laterale e a voglia che ce n'è differenza da questa alla cubica, se la gioca anche in ricezione. A quello del Brasile con questa qua, la verticale, lo prendevo a 1 di segnale, come ho messo la cubica lo prendevo a 7, 8, 9, esagerando perché avevo anche i picchi di 9, lo prendevo bello forte. Ma come radio sei già super 5 sei come radio, però non ti posso dire il segnale, cioè il... come si dice lì, cazzo, l'altro segnale perché non so se sia giusto. No, già non succede niente. Su quel segnale l'altro lo vedo a sé, lo vedo, però magari non è giusto. Comunque già va bene anche così, già non succede niente. L'importante è sentirci che siamo vicini, da. Ma voglia, forse è chiaro, metto il volume basso, ma ti sento limpido. Meglio. Aspetta che deve incollare un giocattolo alla mia figlia che gli si è rotto. Chiara, aspetta che... Io qua mi sto sollando questo... PL, se ci riusciamo, fallo andare. Quindi non fa quanta giuva tu rimani, E cosa hai fatto, Dani, perché? Un bel sicuro sono andato a saldarlo. Prendo, saldo tutto quanto, vado, faccio le prove e inizia a suonare sia un po' caldo che un po' freddo. E già avevo un figlio. caldo della calza, un filino di niente che mi tocca il polo caldo della calza, il polo centrale. Ah no, io li trovo sempre col tester, prima di saldare li trovo, controllo se c'è continuità col cicalino e poi saldo. Una volta saldato ricontrollo se c'è sempre continuità, non si è finito in corto, capito? Quando sei sicuro che prendi e vai direttamente, dopo ti trovi la sorpresina. Così succede, no? Quella è troppa esperienza. Capita, le 32 secondi che è vero se riesco a saldarlo, dai. Beh, io provo a farmi un giro a vedere se trovo qualcuno in propagazione, no? Ehi, Arani, dai, io già sono qua e sto saldando, ci aggiorniamo dopo. Ok, dai, se sento qualcuno già ti faccio sapere, magari girati anche lui verso lì. Cava, cava. Daniele, a due passi, ti sento forte e chiaro. Giovanni, mi senti? Sì, positivo, ti sento forte, bene. Daniele, io sono al quinto pendine. Io sono al terzo. Ma è per quello. Arrivi benissimo. A casa non mi arrivano, non c'è troppo. Ma è tanto cose belle a casa, Dove stai, a Sassari? Io sono a Sassari, ma le antenne sono tutte. Sì, avevamo già avuto occasione di sentirci, sì. E ti sentivo anch'io comunque, se ti ricordi. Sì, io mi aiutino, mi faccio sentire, se no guai. Se ci vuole è bene usarlo se uno ce l'ha. Beh, devi compensare, che a volte io non sento, gli altri mi sentono, quindi è una cosa quasi inutile. Lo so, ci sono passato due mesi, qua sono stato così, due mesi. Adesso che te ne stai usando adesso? Ma sì, io ho 5 ottavi. Lei cambia la giornata da notte, 5 ottavi è sempre una marcia in più. Daniele, ti ascolti la cosa? Sì, conferma, forte e chiaro qua. Tu mi ascolti bene perché io ho il drone attaccato e quindi anche io sono aiutato. Sia ricezione che trasmissione. Io non vedo il segnale perché l'apparato è tutto sulla destra, quindi di conseguenza non lo vedo, poi sta anche guidando. Però se vedete la radio è buona. Quello che mi interessa, vai. Quello che mi interessa. Gava. Guarda un po' se così cosa dice. Tutto questo casino qua. Meglio così. Che è avanti, buonasera. Scusi il disturbo. Aspetta, va un po' di male pranzo, la Kappa, ciao Fra, ben ascoltato. Vero che arrivi bene stasera. Quanto pare sei in zona. Niente, comunque ciao, mi è sembrato Daniele, e poi Giovanni. Avanti Daniele. Si conferma, chi sei che non ti riesco a mettere a fuoco dalla noce? Capo, dai, Franco da Sorso. Poi carissimo Franco, mi hai sentito? Anche da quelle parti arrivo ancora. Arrivi benissimo anche, non arriva a quelle parti, anche benissimo. Capo, meglio così, dai. No, altro, non cambia l'antenna, Fra. L'altra la 58 si è rotta, lei forse. Sto già verso un quarto d'onda e la Grand Prix. Niente. Però sembra che egregiamente si stia comportando bene. Sì, Sì, qua arrivi un segnale di 8 e radio 5, è perfetta. Franco! Adesso ti arrivo bene, io sono adesso sono aspetto al terzo pettine, sì. Sto passando avanti al terzo pettine, quindi ti arrivo bene anch'io. Ehi, se cade l'antenna ti cade sopra, se ti cade la mia. Addirittura, sono sotto di te. Quasi. No, arrivi fortissimo, chiaro e limpido. Ehi, capo, sono qua la zona più alta che c'è al sorso, dai. Niente, mi è sembrato che c'è anche Giovanni. Giovanni! Ciao Franco, buonasera, ben sentito. Radio Super 5 è segnale ottimo, cambio. Ehi, capo, anche tu arrivi benissimo, 9.20 e Radio 5, perfetta. Ti ascolto benissimo. Ci siamo migliorati in confronto a qualche tempo fa, dai. Se ti...